America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Martedì 3 gennaio, elezioni in Iowa. Il giorno è arrivato, direi che da oggi parte sul serio la grande avventura elettorale americana. Cominceremo a contare i voti, soprattutto nelle primarie repubblicane, perché ovviamente Barack Obama si presenterà semplicemente alla sua convention e sarà incoronato, e finora abbiamo avuto una serie di alti e bassi, perché devo dire la storia di questa campagna repubblicana è stata poi costellata da quelle straordinarie gaffe del governatore Rick Perry del Texas, dallo scandalo sessuale di Herman Cain. C'è stata nella preparazione così una continua ricerca da parte della destra repubblicana, dei Tea Parties, di un candidato che fosse alternativo a Mitt Romney. Mitt Romney era troppo precisino, era troppo centrista, già guardava il suo scontro con Barack Obama e dunque non gli piaceva. E dunque si sono buttati prima su Rick Perry, e poi abbiamo visto che Rick Perry diceva: voglio dirvi tre cose, una, due, e poi la terza se la dimenticava. Abbiamo visto Herman Cain distrutto dagli scandali sessuali. Dopodiché si sono buttati su Gingrich, che a un certo punto aveva raggiunto un distacco molto forte nei confronti di Romney, distacco che poi si è molto più contenuto nelle ultime settimane, anche perché Romney, nonostante avesse promesso di fare il contrario, ha fatto poi una campagna negativa molto forte. C'è il terzo incomodo, Ron Paul. Questi sono i tre candidati, credo, con cui ci confronteremo non soltanto dai risultati dell'Iowa, ma guardando poi più in là nelle prime settimane di queste primarie. Credo che sia da questi tre, e diciamo da questi due, con secondo me un favoritismo ancora per Romney, che emergerà poi il candidato. Ecco, di queste elezioni, di queste primarie, della stagione elettorale che parte, voglio parlare con Vittorio Zucconi, corrispondente inviato di Repubblica a Washington, un veterano di molte campagne elettorali e soprattutto di questa partenza in Iowa. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi, buongiorno a te Mario. Allora, intanto sul piano politico, direi che il numero a questo punto è a tre, perché gli altri, Huntsman, la Bachmann, insomma l'abbiamo visto un po' nei dibattiti, così nell'addirittura finale d'arrivo, non hanno dimostrato di sapersi riprendere. Sei d'accordo? Sì, anche perché c'è un profondissimo sbandamento all'interno di questo partito repubblicano, che qualche mese fa era convinto di avere la Casa Bianca a portata di mano, e quindi si sgomitavano che chiunque fosse stato il vincitore sarebbe poi stato eletto, mentre ora le cose stanno un po' cambiando, quindi come sempre succede, Mario, io, ahimè, hai detto bene, veterano, sono alla mia settima campagna elettorale presidenziale, e come sempre quando qualcuno emerge e diventa il candidato di punta, citavi prima i vari casi, Perry, Romney, adesso Gingrich, si accendono i riflettori e cominciano a usare il microscopio e vengono fuori tutti i nei, tutti i trascorsi, tutti i difetti, gli altri ti attaccano. E quindi da queste forche caudine spesso il candidato di testa poi esce massacrato. Il caucus dell'Iowa, certamente ora ne parleremo, è un evento, è un'istituzione stranissima della politica americana, che spesso crea risultati molto curiosi, molto bizzarri. L'economia sembra che piano piano si stia riprendendo. Barack Obama ha avuto momenti di grave difficoltà, però poi a un certo punto i suoi indici di ingradimento sono saliti, e in coincidenza con l'aumento degli indici di ingradimento di Gingrich, quindi sono successe le cose strane. Domanda: Obama ha delle forti possibilità di farcela? Io appartengo alla scuola cinica e materialista che dice, come spiegarono a Clinton all'inizio della sua campagna elettorale il suo principale stratega James Carville, it's the economy stupid, alla fine è l'economia quella che conta. Abbiamo visto in Europa crollare uno dopo l'altro i governi, anche la Merkel perde le elezioni in tutti i land tedeschi perché l'economia non va bene. Se l'economia si riprende, come certi segni sembrano indicare, 45 su 50 stati americani hanno visto un forte aumento dell'occupazione, 1.280.000 posti di lavoro negli ultimi 4 mesi del 2011, se l'economia si riprende, se la disoccupazione dà segni di tendenza al ribasso, non potrà credo scendere sotto l'8%, ma l'importante è la tendenza, quindi il senso che le cose stiano andando meglio, Se questi sono i candidati repubblicani, io penso che alla fine gli elettori di Barack Obama, turandosi il naso, gli indipendenti e la sinistra democratica, voteranno ancora per lui e quindi potrà vincere. Ecco Vittorio, parliamo dell'Iowa, questo sterminato granaio d'America, un posto remoto, lontano da tutti. Per arrivare a Des Moines non ci sono neanche voli diretti, da New York bisogna fare scali, ci si mette 6 ore, 7 ore. Ecco, raccontiamo un po' questo Iowa nell'inverno, perché poi anche l'inverno conta. Tu hai parlato di granaio, ma più che un granaio è un frigorifero, perché noi che ci siamo stati varie volte sappiamo cosa significhi il freddo del cuore interno dell'America, della prateria, che non è protetto da nessuna montagna, da nessun ostacolo, per cui soffia il vento, lo chiamano l'espresso del polo qui, che viene giù direttamente dal polo nord. E io ho onestamente, e questa non è letteratura, rischiato l'assidenamento, ho provato quella famosa sensazione di grande calore che tutti dicono precede il momento in cui schioppi, per cui fui portato dentro un fienile al caldo perché stavo benissimo e c'erano meno 15 gradi, e quindi è un posto freddissimo, è un posto bianchissimo, non soltanto perché spesso nevica, ma perché è lo stato più bianco dal punto di vista della pelle d'America. Bianco o rosa, perché è anche molto rosa, tu dicevi prima il granaio, ma è anche la grande porcilaia d'America. L'ultima volta che ho controllato le cifre ci sono 3 maiali per ogni essere umano. Ed è quindi uno stato straordinariamente poco rappresentativo di un'America che tu sai è fatta di 1000 colori, è una coperta quilt, un patchwork di razze, di religioni, di lingue. E invece lì è molto monocorde, monotematico, è rarissimo trovare un elettore che non abbia la pelle rosea, quindi è molto molto poco rappresentativo dell'America, perché sono bianchi, moderati, certamente centristi, in ogni caso non c'è l'estremismo, però poi alle elezioni si sa che quelli che faranno vincere i democratici saranno come sempre gli ispanici e gli afroamericani, che in Iowa praticamente non esistono. Ecco Vittorio, tu hai detto che sei stato portato in un fienile quando hai avuto questo piccolo attacco di assideramento. Ora noi non vogliamo chiederti che cosa è successo in quel fienile, però è noto che i caucus, cioè queste riunioni che non sono delle primarie in Iowa, e quindi raccontiamo questo, spesso avvengono in dei fienili. Ce ne racconti una che tu hai vissuto in prima persona? Esattamente, quindi non fui portato in un fienile per godere della compagnia o del calore di qualche villanella locale, è perché ero semplicemente fuori e aspettavo di vedere che arrivasse il corteo di automobili che portava allora il candidato Clinton, Bill Clinton, e quindi stando fuori in questa meravigliosa giornata di un sole perfetto ma con la temperatura bassissima, mi divertiva a guardare questi cortei di macchine nere tra i campi bianchi che sono un po' ondulati nell'Iowa, non è proprio piatto, piatto, piatto, e lì mi ha preso questo principio e mi ha portato dentro al tepore dove la campagna elettorale, dentro un fienile vero, aveva organizzato un fienile falso, per cui Clinton saliva su delle balle, nel senso di balle di fieno, non di ecoballe o di menzogne, e in mezzo a finte ruote di carri, a coccarde di pannocchie, e c'era questa atmosfera da film, non lo so, quasi da Wizard of Oz, ecco, un mondo che non esiste da nessun'altra parte in America, che però determina molto spesso l'andamento della politica americana. 4 anni fa, come tu ricorderai, la vittoria a sorpresa di Barack Obama nell'Iowa lo trasformò in un candidato di testa e non soltanto in una curiosità, che così sarebbe stato sconfitto dalla Clinton. Ecco. Invece lui puntò sull'Iowa, puntò su un elettorato tutto bianco che scelse il candidato nero e lo portò poi alla prominenza nazionale. Ecco, il caucus da dove viene? È un nome di origine indiana? Come funziona? Perché fanno il caucus? E ci sono altri caucus, tra l'altro, in queste elezioni americane e non soltanto le primarie normali? Perché il caucus, che appunto sembra essere proprio una parola indiana, c'è una città nel New Jersey vicino a New York che si chiama Sea Caucus, è proprio quella la stessa parola, è il consiglio della tribù, degli anziani, almeno quella sembra sia l'origine perché non è certissima, è un modo per fare una democrazia ancora più diretta e partecipata di quello che non siano le primarie, che pure sono molto dirette e partecipate. Si ritrovano semplicemente le varie persone che si sobbarcano spesso lunghi viaggi, perché l'Iowa è uno stato molto grande, si fanno ore di macchina per andare a trovarsi in palestre, in aule di scuole, in ballroom, in grandi sale da ballo di alberghi, dove entrano e votano semplicemente raccogliendosi a gruppetti sopra il cartello. Sembrano i turisti giapponesi quando arrivano a Roma, c'è quello col cartello davanti e tutti lo seguono, si raggruppano sotto i vari cartelli con i nomi dei candidati, quindi quest'anno saranno Bachmann, Gingrich, Romney, Perry e Ron Paul, e poi si contano. Quindi è un processo anche molto laborioso, nel quale i sondaggi sbagliano quasi sempre, perché all'ultimo momento uno può passare da un gruppetto all'altro e quindi cambiare il conteggio. Sono molto poche migliaia di voti, però fanno di un candidato che magari non aveva speranze, a costi relativamente bassi, perché non devi fare quelle grandi campagne televisive come devi fare a New York o in California, che costano delle fortune. Questi candidati battono letteralmente giorno dopo giorno chiese, case, alberghi, centri di anziani, case di riposo, per dire votate per me quella notte. E in quella notte magica anche uno sconosciuto può diventare importante. Poi pochi giorni dopo invece ci sono vere elezioni primarie nello stato del New Hampshire, e allora lì le cose diventano più serie. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 3 gennaio del 59, l'Alaska diventava il 49esimo stato degli Stati Uniti d'America. In onore di questo anniversario, oggi vi faccio ascoltare una band che prende il nome da una baia dell'Alaska, dove è nato il leader del gruppo musicale Port O'Brien. I Woke Up Today. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.